Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Eccoci, bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Io sono Valentina e siamo qui con un ospite speciale, Andrea. Ciao. Andrea è il vicepresidente di un'associazione di Reggio Emilia che si chiama Jaima Sarawi e che si occupa di uno dei conflitti ormai dimenticati, in particolare nel Nord Africa. Andrea, raccontaci un po' di che cosa si tratta. Sì, allora, la nostra associazione si occupa del conflitto del Sahara Occidentale. Per chi non lo sapesse, il Sahara Occidentale era un'ex colonia spagnola che alla fine del colonialismo spagnolo nel 1975 è stata occupata, invasa dal Marocco. È scoppiata una guerra tra il Marocco e il fronte di liberazione del popolo Sahrawi, che è il popolo che abita il territorio, il fronte Polisario, che è durata dal 1975 al 1991. E qual è sostanzialmente il risultato di questa situazione? Che il Sahara Occidentale rimane l'unico territorio dell'Africa che non è uscito dal colonialismo. In particolare dal 1991 in poi il fronte Polisario e il Marocco si sono messi d'accordo sotto leggi delle Nazioni Unite per terminare le ostilità e attuare un referendum di autodeterminazione che avrebbe dovuto permettere alla popolazione sahrawi di decidere se avere uno stato indipendente oppure se essere integrata col Marocco. In realtà quello che è successo è che questo referendum, soprattutto per delle tattiche dilatorie portate avanti dal Marocco, che aveva occupato ormai il territorio e che insomma era interessato a mantenere questa occupazione perché comunque il territorio è molto ricco di risorse, sta di fatto che questo referendum non è mai stato attuato fino ad oggi. Ovviamente quello che è il risultato è che c'è una popolazione civile che soffre terribilmente, siccome metà vive sotto un'occupazione militare e ogni volta che rivendica la sua identità nazionale è sottoposta a una forte repressione, dall'altra parte c'è un'altra metà della popolazione che negli anni della guerra è scappata e che si ritrova a partire dal 1975 rifugiata nel territorio, nel deserto algerino, in condizioni ambientali terrificanti, perché parliamo di 50 gradi d'estate. Quindi insomma parliamo un po' di una Palestina di cui non si sente tanto parlare sui giornali, ma che comunque esiste. Esiste, e sappiamo anche che c'è un muro che è lunghissimo. Quanto è lungo il muro? Sì, c'è un muro che è stato costruito dal Marocco sostanzialmente per consolidare la sua occupazione. È il secondo muro più lungo della storia dell'umanità, dopo la muraglia cinese. È lungo 2700 km ed è presidiato da almeno 3 milioni di mine, tra mine anti-uomo e mine anticarro. In effetti questo è ancora più impressionante, fa ancora più impressione pensare che non se ne parli. Quindi, da quello che hai detto, mi pare che la situazione duri da parecchio tempo, parecchi anni. Sì, abbiamo parlato sì, 1975-1991. Ecco, quindi io ti chiedo, durante tutti questi anni ci sono stati delle rivendicazioni da parte della popolazione civile, soprattutto quella che vive a ovest del muro, nella parte occupata? Sì, adesso la popolazione del popolo sahrawi sono anni ormai che ha portato avanti una lotta appunto per l'autodeterminazione, soprattutto attraverso dei metodi non violenti. Comunque loro hanno adottato la non violenza come metodo fondante della loro lotta, quindi fanno delle manifestazioni nei territori occupati che sono però costantemente represse dalle autorità marocchine. C'è stata una manifestazione ad esempio molto grande nel 2010, nell'autunno del 2010, in cui circa 20.000 persone si sono accampate per un mese fuori dalla capitale del territorio occupato. Dopo un mese che queste persone erano accampate lì facendo le loro rivendicazioni, il campo è stato smantellato pesantemente e gli organizzatori sono poi stati condannati da una corte militare a pene che vanno dall'ergastolo ai 30 anni di reclusione. Ormai stiamo parlando appunto del campo di Game Izik, che è vero, è stato definito da Noam Chomsky come l'inizio della primavera araba, l'inizio della primavera araba, avendo sostanzialmente preceduto le proteste che poi si sono avute a Tunisi nella primavera del 2011, sostanzialmente con le stesse modalità. Ok, adesso abbiamo in serbo un qualcosa di speciale per voi, un'intervista di un ragazzo sahrawi che vive nella provincia di Reggio Emilia, in particolare da San Martino in Rio. Ma prima rilassiamoci un attimo con una canzone. Cosa ascoltiamo, Andrea? È una canzone di un gruppo che sarà sicuramente molto caro ai tanti volontari di Libera, Modena City Ramblers, Swad, che parla proprio dei campi sahrawi. Buon ascolto. foto di polvere e tramonti, di tappeti stesi, di tende e di silenzi, di kashbah e di mercati, di aeroplani su terre straniere, di piedi scalzi nei vicoli di Algeri. Sabbia portata dal vento, di palme cresciute alla luce dell'Oriente. Ciao Moody, sappiamo che sei nato nei campi profughi del Sahara occidentale e che hai viaggiato tanto nella tua vita, e quindi vorremmo chiederti quali sono state le circostanze per cui hai viaggiato e perché ora ti trovi in Italia. Buongiorno a tutti, io sono nato nei campi profughi Sahrawi al sud dell'Algeria. Sono nati lì perché i genitori di tanti Sahrawi, tanti cittadini Sahrawi, sono stati obbligati a fuggire al sud dell'Algeria, perché il Sahara occidentale è stato occupato dal Marocco nel 1975, e dove la nostra popolazione, per paura e per anche proteggere i loro figli, sono dovuti scappare in Algeria. In Algeria viviamo ormai da 40 anni in un campo profughi. Io, vivendo nei campi profughi, siamo stati anche noi ragazzi, giovani, siamo stati quasi obbligati a dover uscire dai campi profughi per poter studiare, per poter anche avere una vita migliore. Quindi noi nei campi non abbiamo infrastrutture per poter studiare, quindi il nostro popolo, il nostro governo quasi ci può garantire solo i primi anni della scuola elementare. Quindi per poter fare, per seguire con gli studi, noi abbiamo chiesto a diversi paesi di darci una mano per poter seguire studiando. Quindi io, come altri ragazzi, siamo andati a Cuba quando avevamo 12 anni, perché abbiamo chiesto a Cuba, e Cuba quindi è stato uno dei paesi che ci ha soccorso, che ci ha dato sostegno, e quindi ci ha aiutato a livello di istruzione e a livello anche quello di sanità. Ma adesso quindi quindi sei andato a studiare a Cuba per alcuni anni e adesso ti trovi in Italia, in che circostanze sei venuto a vivere qua in Italia? In Italia io quando sono tornato ai campi profughi dopo aver studiato a Cuba volevo proseguire gli studi e quindi ho fatto un corso all'Istituto di Cultura Italiana in Algeria per un anno e dopo ho vinto una borsa di studio, sono venuto in Italia nel 2006, quindi sono qua in Italia dal 2006, sono residente e quindi ho avuto anche comunque, penso come tante persone, dei problemi con la burocrazia, con i documenti, perché come sappiamo tutto qua in Italia c'è questo problema della burocrazia che tocca tutti i livelli della società e tutti i livelli della vita quotidiana. Sì, adesso sappiamo che hai in progetto adesso di sposarti con una ragazza italiana con cui hai già avuto una bellissima bambina e mi dicevi prima appunto che hai avuto dei problemi con insomma, i documenti che hai dovuto fare per il matrimonio che è in programma di fare nei prossimi mesi. Sì, noi ormai conviviamo da 5 anni, abbiamo una bimba e quindi però abbiamo voluto sposarci, però anche sono quasi 2-3 anni che per problemi legati alla burocrazia, non solo alla burocrazia italiana, anche alla burocrazia in Algeria e anche noi nei campi profughi, come viviamo nei campi profughi Sahrawi, l'Algeria ci riconosce come Stato, ci sono anche quasi 80 paesi nel mondo che ci riconoscono, siano paesi sudamericani che africani. E quindi noi per viaggiare per questi paesi possiamo viaggiare con documenti sahrawi. L'Italia non riconosce lo Stato sahrawi come non riconosce lo Stato palestinese e quindi noi qua in Italia siamo cittadini algerini, quindi per fare questo tipo di documento, qualunque altro tipo di documento, ci dobbiamo rivolgere ai campi profughi, dopo dobbiamo mandare documenti in Algeria che sono 2000 km dai campi profughi fino alla capitale algerina. I mezzi per fare tutti questi documenti, il spostamento delle persone che le dovranno fare sono molto, molto scarsi, quindi divenne molto difficile. In più anche arrivando qua al comune di residenza, quindi ci sono anche dei documenti richiesti del comune, quindi è una burocrazia molto difficile o molto rende proprio la vita quasi impossibile, perché per fare tutti questi passi, tutti questi documenti uno deve fare proprio dei salti mortali, deve anche fare delle spese. Ed è uno dei grossi problemi che ricadono su queste persone, dello stallo di questa situazione permanente che non si muove, di una situazione che non viene risolta dalla comunità internazionale e che però ovviamente ha dei grossi problemi anche sulla vita delle persone. In passato hai avuto anche problemi con il permesso di soggiorno qua in Italia, ricordo. Sì, anche ho avuto un problema con il permesso di soggiorno e sono stato anche qua in Italia ad essere obbligato, dopo aver vissuto qua in Italia 4 anni come studente, sono stato anche obbligato a andare nella caserma dei carabinieri e firmare tutti i giorni per un mese, quindi senza aver commesso nessun tipo di reato, non ho avuto mai problema con la giustizia, non ho avuto problema con nessuno, e quindi sono stato obbligato solo perché sono un profugo e quindi ho avuto questo problema con i documenti, quindi ho dovuto andare tutti i giorni alla caserma dei carabinieri per firmare la mattina per un mese. E quindi sono stato obbligato anche a essere in un posto, perché andare a firmare tutti i giorni vuol dire che uno le tolgono i suoi diritti di poter muoversi con libertà, perché uno vuole spostarsi e quindi sei obbligato a rimanere nello stesso posto senza aver commesso nessun tipo di problema. E questo peraltro nonostante il fatto tu internazionalmente abbia lo status di rifugiato, perché sei nato in un campo di rifugiati, appartiene alla popolazione sahrawi, a quel settore della popolazione sahrawi che vive nei campi di rifugiati, e quindi internazionalmente avresti anche lo status di rifugiato, quindi peraltro questo status che in teoria dovrebbe facilitarti le cose, qui in realtà te le ha pure complicate, quindi questa è un'altra dei problemi che nascono da questa situazione che non viene risolta dalla comunità internazionale, che però ha dei grossi problemi anche appunto con riguardo alla cittadinanza delle persone. Ti chiedo appunto, rispetto a questa questione, allora, secondo te quali sono le cause per cui questa questione non viene risolta e quali possono essere le prospettive future nell'immediato futuro, considerando che oramai sono praticamente 40 anni che questa situazione non viene risolta dalla comunità internazionale? Noi, quando siamo stati occupati del Marocco militarmente, perché il Marocco ha usato anche delle armi chimiche contro la nostra popolazione, proibite internazionalmente, ha commesso dei genocidi contro la nostra popolazione e quindi hanno commesso anche un crimine contro l'umanità. Noi abbiamo resistito a questo genocidio dal 1975 fino al 1991, abbiamo firmato l'accordo di pace con il Marocco per fare un referendum di autodeterminazione. Non solo ci è stato negato il diritto di vivere nel nostro territorio, il nostro legittimo territorio, sino siamo anche, ci sono state anche negate tanti altri diritti, come diritto all'istruzione, diritto alla sanità, diritto al lavoro, diritto a muoversi in libertà, il diritto di poter manifestare liberamente, il diritto di poter esprimere le nostre idee, il diritto di scegliere quello che vogliamo nella vita, certo con il rispetto delle altre persone. E quindi noi, queste sono le cose che noi chiediamo. La nostra situazione adesso si trova in una situazione di stallo, perché noi abbiamo chiesto alla comunità internazionale, perché stiamo seguendo la carta dei diritti delle Nazioni Unite, la Carta dei diritti dell'uomo di Ginevra. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo seguendo le leggi internazionali, quindi abbiamo chiesto alle Nazioni Unite nel 1991, il Marocco ha accettato e quindi noi vogliamo solo fare un referendum di autodeterminazione, scegliere quello che vogliamo. La Carta fondamentale delle Nazioni Unite dice che il popolo Sahrawi non fa parte del Marocco e quindi dobbiamo fare questo referendum per finire di questa situazione, questa grandissima disgrazia che sta capitando al popolo Sahrawi. Dopo il Marocco dice che noi siamo facciamo parte del Marocco e che il Sahara occidentale è il Marocco, però noi ci siamo trovati sempre nelle sedi, nelle istituzioni internazionali, ci siamo trovati sempre che vedendo gli ultimi successi che sono stati, gli ultimi fatti che sono successi nel mondo, quindi dove sempre ha intervenuto Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel caso del popolo Sahrawi non ha mai dato una giusta soluzione. Quindi è uno degli ostacoli fondamentali per risolvere la situazione del popolo Sahrawi è il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, principalmente la Francia, perché la Francia ha il diritto di veto e quindi la Francia ha tantissimi interessi con il Marocco e quindi ha messo sempre davanti i suoi interessi economici e politici prima dell'interesse delle persone, dell'essere umano. Quindi uno dei principali ostacoli è la Francia, perché prende armi al Marocco, ci troviamo incarcerati nel nostro territorio perché non possiamo, siamo obbligati a scappare dal nostro territorio, però questo anche non solo causata del nostro paese vicino, però è causato anche di tutti i paesi che fanno parte o formano parte di questo conflitto di una forma diretta o indiretta, quelli che le vendono armi e quelli che usano anche il loro interesse, usando la loro posizione politica, usano la loro posizione politica per negarci questo diritto. No, beh, ti ringraziamo tantissimo, Moody, e per concludere ti chiediamo di scegliere una canzone. Io sceglierei la canzone Khulud, che è una canzone di una cantante Sahrawi che canta, è un simbolo della resistenza del popolo Sahrawi, e la canzone si intitola Resistenza. Grazie. Eccoci ritornati in studio. Ora, per prima di concludere, Andrea, parlaci un po' dell'attività che svolge la tua associazione in breve. Sì, allora, la nostra associazione fa numerose attività per quanto riguarda appunto questa questione del Sahara occidentale. Una parte dell'attività è rivolta ovviamente all'invio di aiuti umanitari, al supporto, alla solidarietà verso la popolazione rifugiata. Uno dei programmi più importanti che abbiamo sono i programmi di accoglienza. Adesso a fine giugno arriveranno in provincia di Reggio Emilia una quarantina di bambini sahrawi che staranno qui l'estate per sfuggire al caldo del deserto e anche per fare dei controlli medici. Dall'altra parte c'è tutta la parte ovviamente informativa, di sensibilizzazione e di solidarietà per quanto riguarda questa questione e soprattutto la questione dei diritti umani nei territori occupati, che come dicevamo prima è ovviamente drammatica. Ok, quindi c'è anche la possibilità di andare ai campi, andare a visitarli. Sì, certo, noi d'inverno facciamo sempre questo campo di lavoro, che è un progetto che si chiama Yalla Gumu, che vuol dire letteralmente alzati e andiamo, in cui insomma offriamo ai giovani provenienti da tutta Italia di venire nei campi di rifugiati sahrawi, stare con noi 2 settimane e portare avanti un'attività di animazione nelle scuole elementari di un campo profughi. Giochiamo con i bambini, facciamo animazione e alla fine di queste 2 settimane si cerca di mettere su un piccolo spettacolo teatrale. Se ci fossero degli interessati per questo progetto, a partecipare a questo progetto, possono benissimo contattarci all'indirizzo jaimasahrawi@libero.it oppure sulla nostra pagina Facebook jaimasahrawi, SAHRWAWI. Grazie mille, Andrea, di essere stato qui con noi oggi. Niente. E per concludere, quindi, vi lasciamo con una canzone che di una cantante sahrawi bravissima con una voce pazzesca che si chiama Mariem Hassan, che dov'è che ha cantato l'ultima volta, Andrea? È stata ospite 2 anni fa al Festival del Blues di Roma. Quindi anche una cantante piuttosto importante. Questa canzone si chiama, la traduzione è La Melfa, che è appunto l'abito tradizionale delle donne sahrawi, fatto con queste stoffe bellissime e super colorate. E vi lascio all'ascolto della sua incredibile voce. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.